commenti buddhisti questo è un aspetto secondario. We do unwholesome things, unskillful things, because of a delusion. E noi se facciamo cose che non sono salutari o abili è a causa dell'illusione. This illusion is within the looking. E questa illusione sta all'interno del guardare. The way we look at the world contains our delusion. Il modo in cui noi guardiamo il mondo contiene la nostra illusione. And the definition of delusion is that you don't know you're deluded. E per definizione, quando sei nell'illusione, non sai di essere illuso. So we think that this is the way it really is. Ed è proprio così. So the process of our meditation is to find within ourselves a place where we can observe objectively. Quindi lo scopo della nostra meditazione è quello di trovare dentro noi stessi uno spazio da cui guardare in modo obiettivo. And we notice that everything is conditioned. Notando che tutto è condizionato. Everything is dependent on something else in order to arise. Ogni cosa dipende da qualcos'altro per poter sorgere. Sometimes it's very obvious. A volte è una cosa molto ovvia. I mean, I keep living because I keep breathing. Per esempio, io continuo a vivere perché continuo a respirare. But sometimes it's not so obvious. Ma altre volte non è così ovvio. When, for instance, I have a feeling in me which comes from some past event, it's conditioned by that past event. Per esempio, quando dentro di me ho un certo sentire, magari un'emozione, che è condizionato da un evento che è accaduto nel passato. But I can't remember. I don't know what it is. Ma non me lo ricordo, quindi non so come mai c'è. So this panic arises, the depression arises, spontaneous happiness arises, and it seems to be coming out of nowhere. Quindi mi arriva del panico, o la depressione, o anche della felicità, e sembra che arrivi dal nulla. So, what the Buddha has given us is instructions on how to begin to see the way things really are. Quindi quello che ha fatto il Buddha è di darci delle istruzioni per come iniziare a vedere le cose per come sono veramente. The classic phrase is to understand and see how things have come to be. E la frase classica è cominciare a comprendere e vedere come le cose hanno iniziato ad essere. So in other words, to observe process. In altre parole, si tratta di osservare il processo. And when we see process, we can see this is arising because of that. E quando vediamo il processo, riusciamo a notare che una cosa sorge a causa di un'altra cosa. So, as our wisdom grows, we can see where we're making a mistake. E man mano cresce la nostra saggezza, riusciamo a vedere dove commettiamo errori. Now, what we actually experience, because it's a product from the past, has an energy within itself. E quello che noi sperimentiamo effettivamente, dato che è un prodotto del passato, contiene di per sé dell'energia. So there is within me, for instance, a great balloon of anger. Per esempio, dentro di me ci può essere un grande pallone di rabbia. This anger is not connected to what caused it. E questa rabbia ora non è connessa a quello che l'ha causata. Normally we say somebody has annoyed me. Per esempio, di solito diciamo qualcuno mi ha veramente dato fastidio. But actually it's me developing anger towards this person. Ma in realtà quello che sta accadendo è che io ora sto sviluppando della rabbia verso quella persona. And therefore this anger has its own internal energy. Ed ecco per questo che la rabbia, questa rabbia contiene dentro di sé dell'energia interna. Sì. So when something makes me angry, often all this anger wants to go towards that object. Quindi quando qualcosa mi fa arrabbiare, tutta questa energia della rabbia vuole muoversi verso quella direzione. Now, what can I do about this great ball of anger? Quindi cosa posso fare io con questa grande palla di rabbia? The answer is nothing. La risposta è niente. We can't do anything about the anger. Noi non possiamo fare nulla rispetto alla rabbia. It's an internal conditioning. È un condizionamento interno. What we can do is allow it to manifest. Ma quello che possiamo fare è lasciare che si manifesti. And it can manifest in a right way or a wrong way. E può manifestarsi in un modo giusto e uno sbagliato. In a wrong way it begins to rise up into the intellect and begins to create a story. Nel modo errato comincia a salire su, entra nell'intelletto e inizia a creare una storia. And this is quite habitual for us. E diventa una forza abitudinaria. So often you just find yourself planning somebody's murder. E spesso ti capita di trovarti a pianificare l'omicidio di qualcuno. Or worse. O anche peggio. And so now unwittingly that anger is now developing itself through the story. E così proprio per mancanza di intelligenza questa rabbia si sta sviluppando dentro un'intera storia. This story remains mental, it remains within our minds, our hearts. Se la storia rimane mentale, quindi resta dentro la nostra mente, il nostro cuore. But it has energy. Ha comunque dell'energia. And if we're not careful, it begins to express itself through our voice. E se non facciamo attenzione, comincerà ad esprimersi anche attraverso la nostra voce. And eventually through the body as an action. E alla fine anche attraverso il corpo diventando un'azione. So this is why the Buddha says everything begins in the mind. Ecco perché il Buddha dice ogni cosa inizia nella mente. So when we're sitting we are allowing it to manifest, but every time we find ourselves in this dream world we have to keep coming back into the body. Quindi quando noi siamo seduti in meditazione lasciamo che questa rabbia emerga e si manifesti, ma ogni volta che ci accorgiamo che ci perdiamo dentro questo mondo di fantasia collegato alla rabbia, ritorniamo in contatto col corpo. Now sometimes when you come back to the body you don't feel any anger. E a volte quando ritorniamo nel nostro corpo non sentiamo nessuna rabbia. Now this can be two reasons. E può accadere per due ragioni. That I know of anyway. Almeno quelle che conosco io sono due. First of all, there are types of people who feel the anger in the head. Prima di tutto ci sono dei tipi di persone che la rabbia la sentono nella testa. And when you feel anger in the head, when it's all up here. Quando senti la rabbia nella testa, quindi è tutta qua su. When you come into the body, you don't feel anything. Allora, nel momento che entri nel corpo, non senti nulla. How many people experience that sort of thing? Quanti tra di voi hanno un'esperienza del genere? Okay. So, as you keep coming off the dream, e man mano tu continui a uscire fuori da quel sogno, and keep coming back into the body, e continui a ritornare nel corpo, you're stopping this energy rising up into the intellect. Stai fermando questa energia prima che salga su fino all'intelletto. So then it only has one other way to go. A quel punto quell'energia ha solo un'altra direzione che può prendere. Through the body. Attraverso il corpo. And that's when it's beginning to release its energy. Ed è lì che può iniziare a rilasciare l'energia. If you have an image of our emotional life like the weather. Se avete un'immagine della nostra vita emozionale come se fosse il tempo, il clima. So sometimes it's beautiful and sunny, other times it's too hot, other times it's stormy. A volte è una bella giornata di sole, altre volte c'è troppo caldo, altre volte c'è una tempesta. But all these conditions eventually exhaust their energy. Ma tutte queste condizioni alla fine esauriscono la loro energia. So when we actually finally begin to feel the energy of anger coming out through the body, it's actually releasing itself. quando alla fine noi riusciamo a contattare nel nostro corpo questa energia della rabbia, questo è il segnale che si sta rilasciando fuori dal corpo. You could say you're liberating your anger. Si potrebbe dire che stai liberando la tua rabbia. And eventually, over some time, you might find that your anger is not so fierce. E alla fine, dopo che è passato un po' di tempo, magari ti accorgi che questa rabbia poi non è così forte. And doesn't last so long. E non dura così a lungo. So this is a bit of feedback to you that the practice is beginning to heal the heart. E quello potrebbe essere proprio un buon feedback che ti indica che la pratica ti sta aiutando a liberare il cuore. So our position is that we cannot escape conditioning. La nostra posizione è che noi non possiamo sfuggire al condizionamento. The Buddha as a human being was conditioned. Il Buddha in quanto essere umano era condizionato. But his heart was completely pure. Ma il suo cuore era completamente puro. So the internal atmosphere was always one of some form of happiness. E quindi già interiormente nel suo cuore c'era una qualche forma di felicità. One of the insights he had upon awakening was that all the defilements had been washed away. E una degli insight che lui ha avuto rispetto al risveglio era che tutti gli ostacoli e impedimenti erano stati spazzati via, lavati via. So it's not that we have free choice. Quindi non si tratta del fatto che noi abbiamo una libertà di scelta. It's more that we recognize that we're suffering. Si tratta di più di riconoscere che c'è la sofferenza. We begin to understand why we're suffering. E poi cominciamo a comprendere perché soffriamo. And all that is suffering we allow to manifest and exhaust itself. E beh, lasciamo che tutta questa sofferenza si manifesti e si esaurisca. So this is what's happening when you're practicing Vipassana. Ed è questo che accade quando pratichiamo Vipassana. Now, these mental states don't just disappear. The energy just doesn't disappear. Quindi tutti questi stati mentali non è che semplicemente scompaiono. La loro energia non scompare. No, this energy actually transforms. In realtà questa energia si trasforma. And what was anger and hatred will move naturally towards love. E quello che era rabbia o odio si muoverà naturalmente trasformandosi in amore. Wherever there was selfishness, it will move towards generosity. E se c'era egoismo, si muoverà trasformandosi in generosità. And wherever there was cruelty, it will move towards compassion. E se c'era crudeltà, si trasformerà in compassione. Where there was fear, it'll move towards courage. E se c'era paura, si trasformerà in coraggio. So wherever we have something which is not virtuous, as we release it, the energy will naturally transform towards its opposite. Quindi se c'era qualcosa che non era virtuoso, quando questa cosa si rilascia, la sua stessa energia si trasformerà nel suo opposto. So for instance, there was a time when somebody in your workplace would make you angry. Per esempio, qualcuno sul lavoro ti ha fatto arrabbiare. So every time that comes up in your meditation, you allow the anger to disappear, to draw volta itself out. Che questo emerge durante la tua meditazione, lasci che questa energia emerga e che piano piano scompaia. So that as you meet that person again, there's less anger. Quindi quando incontrerai di nuovo questa persona ci sarà meno rabbia. There's more openness to the person and acceptance of the person. Ci sarà più apertura e più accettazione verso questa persona. So patience and loving kindness arise naturally. Quindi la pazienza e la gentilezza amorevole sorgono naturalmente, spontaneamente. But you can help it a little bit. Ma possiamo dare un aiutino comunque. By practicing loving kindness. Praticando la gentilezza amorevole. So here we have a situation where a person sees that the suffering that they are experiencing is being caused by them. E qui si tratta delle persone che cominciano a vedere, a riconoscere che la sofferenza che stanno sperimentando è causata da loro stessi. Ah. So seeing that point, they stop exercising that particular emotion as best they can. E vedendo questo, allora smettono di allenare questa emozione facendo del loro meglio. So, as you know, when anger arises, you always count 10. See? You can't count to 10. Count to 10. E sappiamo tutti che quando arriva la rabbia è difficile arrivare a contare fino a 10. Eh? You count to 10. Now, it's interesting to know that the chemicals that are produced in the body when we feel angry take about a minute or 2 minutes to be washed away. Allora è interessante sapere che quando ci sentiamo arrabbiati, tutte le sostanze chimiche che si rilasciano nel corpo quando c'è la rabbia ci mettono 1 o 2 minuti per essere spazzate via, so rilasciate. If you wait long enough, you feel a coolness come. Quindi se riusciamo ad aspettare abbastanza a lungo, sentiremo che ritorna la calma dentro di noi. Ah. So, we can only suffer, we can only be patient with the unwholesome mental states that we've created. Quindi si tratta di essere pazienti con gli stati mentali non salutari che abbiamo creato noi. And give them the space and time to exhaust themselves. Dando a questi stati mentali negativi il tempo e lo spazio per esaurirsi. And then we can choose to condition ourselves with a different, more wholesome state of mind. E a quel punto possiamo scegliere di condizionare noi stessi con qualcos'altro, cioè uno stato mentale più salutare. So the will, that which is the power that is conditioning, is neutral. Quindi lì la volontà, l'arbitrio, che è il potere del condizionamento, è neutro. It doesn't matter whether it's unwholesome or wholesome, the actual will is just a power. E non importa se si tratta di qualcosa di salutare o non salutare, di per sé questa forza è neutra. So you can see, like this morning I was saying, you're intending to eat, you feel the intention. Come vi ho detto stamattina, si può osservare la nostra intenzione di mangiare. And then there is this magic moment when the hand moves. E poi arriva quel momento magico in cui si muove la nostra mano. So this is the will empowering a particular desire. E lì è la volontà che dà potere a un particolare desiderio. What is guiding the will is the wisdom or lack of it. E quello che guida questa volontà è la saggezza o l'assenza di saggezza. And if you can see that as a choice, se riuscite a vederlo come una possibilità di scelta, it's not really a choice. Non è veramente una possibilità di scelta. Because you want to be happy. Perché volete essere felici. So it's not really a choice to keep doing things that make us unhappy. Quindi non è una vera scelta quella di continuare a fare delle cose che ci rendono infelici. So why, when I see I'm doing something wrong, do I keep doing it and making myself unhappy? Quindi perché mai, se io vedo che sto facendo qualcosa che non va bene, dovrei continuare a farlo sapendo che mi renderà infelice? First of all, it tells us the strength of these conditionings, these habits. E per prima cosa capiamo in questo modo quanto sono forti questi condizionamenti. And so we have to have patience with ourselves, eh? E dobbiamo essere molto pazienti con noi stessi. Yeah, we have to learn how to forgive ourselves. E dobbiamo anche imparare a perdonarci. And then we have to keep making a resolution that as soon as such thinking or imagining comes to mind, we'll immediately note it and come back into the body. E dobbiamo anche prendere la risoluzione che ogni volta che noteremo che stiamo ritornando dentro quegli stati mentali, li interromperemo e ritorneremo al nostro corpo. Ginger Rogers and Fred Astaire. Ginger Rogers e Fred Astaire. Ah, if you remember in one of their films. Se ve li ricordate in uno dei loro film. So he's trying to learn how to dance. Lui sta cercando di imparare a danzare. And he keeps falling over. E continua a cadere. And then he has this little song, as usual. E poi ha quella canzoncina che c'è di solito. Pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Boom, boom. Che dice appunto, vabbè, rialzati in piedi, date una spolveratina e riprova da capo. Ecco, this, so I think they were both liberated. Entrambi erano liberati, secondo me. They definitely knew the path. Sicuramente conoscevano il sentiero. So no matter how many times you keep falling into the same error, you keep picking yourself up, make the determination, and start all over again. Quindi non importa quante volte continuerete a cadere dentro le stesse cose, l'importante è che vi rialziate e continuate a provare. Resilience is a real important spiritual virtue. Resilience. La resilienza è davvero una virtù spirituale molto importante. Even if you feel sometimes that you're not winning the game. Anche se a volte senti che non stai vincendo tu la partita. And you decide to just stop the practice, just stop everything. E allora decidi che lasci la pratica, smetti tutto. So this is not so bad. Questo non è poi così male. Because in time you'll see that actually when you stop it gets worse. Perché di tanto in tanto è anche utile vedere che se smetti di praticare poi le cose peggiorano. So you'll soon come back. E quindi dopo poco ricominci a praticare. But never give up. Ma non mollate mai. This is the path direct to hell. Quello lì è il sentiero che ti conduce direttamente all'inferno. Yeah, be careful. Quindi state attenti. We've understood that the will is not free, it is also conditioned. Quindi abbiamo compreso che la volontà, l'arbitrio, non è libero perché è a sua volta condizionato. And that as we become more wise about how we create suffering for ourselves, e man mano diventiamo più saggi notando come ci creiamo da soli la sofferenza, we begin to make those decisions which are drawing us more and more towards happiness. Allora cominceremo a prendere quelle decisioni che sempre di più ci porteranno verso la felicità. So it's a bit like if you were going for a walk with a map. È un po' come andare a fare una camminata con la mappa. You know where you want to be approximately. Tu sai dove vuoi arrivare più o meno. So when you come to a fork in the path. E quando arrivi a un bivio nella tua strada, you have to look at what you at the map and then you decide to go this way. Allora guardi un attimo la mappa e decidi in base a dove vuoi arrivare qual è la strada che prendi. It feels like us as if we had a choice. Allora lo percepiamo come il fatto che noi abbiamo avuto una libera scelta. But it's not. Ma non è così. No. We are conditioned to seek liberation. Noi siamo condizionati al cercare la liberazione. It is a spiritual imperative that all of us will be fully liberated. È un imperativo spirituale quello di essere tutti quanti liberati. Even if you don't believe that. Anche se non ci credi. So, where the Buddha helped, the Buddha is very good at systemizing things. E il Buddha è molto bravo a sistematizzare tutte le cose. Four of these, five of those, ten of these. Quattro di quella cosa, cinque di quell'altra e così via. So he's given us a way of looking at our unwholesome states in five different parts. Quindi ci dà una possibilità di guardare tutti questi stati mentali non salutari e negativi dividendoli in cinque parti. He calls them the hindrances. Li chiama gli ostacoli, gli impedimenti. And they are obstacles to our progress unless we turn them into our teachers. E in effetti sono degli ostacoli al nostro progresso a meno che noi non li facciamo diventare i nostri insegnanti. It's only when we indulge them that we find ourselves making life harder for ourselves. È solo quando indulgiamo dentro questi ostacoli che ci accorgiamo che stiamo rendendo ancora più difficile la nostra vita. So, first of all, there are all those things that we desire that we hope will bring us happiness. E per prima cosa ci sono tutte quelle cose che noi desideriamo perché crediamo che ci daranno la felicità. Ah, sex, drugs and rock and roll. Appunto, sesso, droga e rock and roll. So when we find the mind wandering into those sorts of areas, you see, e quando ci accorgiamo che la nostra mente sta divagando in queste aree, ah, the body becomes excited, eh? Il corpo comincia a diventare eccitato. It becomes hot. Diventa caldo. Ah. If you're planning a holiday, you find, yeah. Se per esempio stai programmando una vacanza, ah, then there's a lot of agitation. Allora c'è tanta agitazione. Ah. So the body is very good, it manifests back to us what we are actually thinking and feeling. Quindi il corpo è davvero bravo nel farci vedere, nel manifestarci quello che noi in quel momento stiamo pensando o sentendo. Now, we have to remember that the things that we enjoy are enjoyable in themselves. E dobbiamo ricordarci che le cose che ci godiamo sono godibili per loro natura. But we are often using those beautiful mental states, those excited mental states, to push something away we don't want to look at. Ma tante volte noi usiamo questi stati che sono godibili e belli di per sé per mandare via o rifiutare qualcosa che invece non ci piace, che non vogliamo vedere. So we find ourselves in a sort of simulator, constantly daydreaming. Ed è come se fossimo dentro un simulatore che funziona continuamente. And while we're in the dream, it's very real. E mentre siamo dentro al sogno, il sogno appare molto reale. I had a friend who spent a whole 6 months in meditation. Ho un amico che ha passato 6 mesi interi in meditazione. And he told me that he'd been a little unskillful. E mi ha detto che era stato un po' poco abile. He spent most of the time planning a trip to South America. Perché aveva passato la maggioranza di quel tempo a programmare un viaggio in Sud America. The irony was, he never went. Eppure non c'è mai andato. Ah. So he said, you know, he said he'd never do that again. E quindi ha detto non lo farò mai più. Our imagination can be so powerful sometimes that we almost feel we've experienced it. E la nostra immaginazione a volte può essere così potente che davvero è come se ne facciamo un'esperienza vera e propria. I had a student who did suffer from bipolar. Avevo uno studente che soffriva di disturbo bipolare. And he said that when he was in when he was on a high. E lui mi diceva che quando era nella polarità alta, because he liked climbing mountains, he was a bit of a mountaineer. E lui era un montanaro e gli piaceva arrampicarsi, scalare le montagne. With his maps and all that, he would imagine climbing up this mountain. Lui con la mente immaginava di scalare questa montagna. With such detail and such feeling. Con talmente tanti dettagli e talmente tante sensazioni. That after he had climbed the mountain, he felt he didn't actually need to climb it. Che dopo che aveva immaginato completamente di scalare la montagna, sentiva che non aveva più bisogno di farlo davvero. He thought he really had fully imagined it as a simulation. L'aveva immaginata pienamente come una simulazione. When I say simulation, I mean, you know, those things that they train pilots in, like a plane. Quando io dico simulazione, sapete, no? Quelle cose che si guidano per allenare, addestrare i piloti. Those simulating machines. Quel tipo di simulatori. So, again, it's the same technique, you see, it's always the same technique. Quindi vedete che è la stessa tecnica, è sempre la stessa tecnica. It's to come off maybe some reflection. You know, this is not doing me any good. per esempio con un po' di riflessioni e notando che queste cose non ci fanno tanto bene. And then draw yourself into the body. E poi ritornando dentro il corpo. Now this is where noting can be very helpful. E lì il prendere le note mentali può essere di grande aiuto. Because the more excitement there is in the mind, the quicker you note. Perché più eccitazione c'è nella mente, più rapide sono le tue note mentali. And if you keep the note going at a regular pace, it'll stop the mind wandering. E se tu mantieni queste annotazioni, queste note mentali a un ritmo regolare, allora questo fermerà la mente, le impedirà di divagare in giro. And you have to support that with a real interest in finding out what is an emotion. E devi dare il sostegno del tuo vero interesse per scoprire, per esempio, che cos'è un'emozione. What is an emotion before you give it a name? Che cos'è un'emozione prima che tu lo chiami con quel certo nome? Ah, and so this will keep you in the body and allow that emotional state again to manifest and exhaust itself. E questo ti permetterà di stare nel corpo, di lasciare che questa emozione, anche in questo caso, si manifesti e poi si esaurisca. And remember that the mind is extraordinarily quick. E ricordiamoci che la mente è straordinariamente rapida. Ah, one nanosecond of inattention and the mind's off. Basta un nanosecondo di mancanza di attenzione e la mente è già decollata. And if you don't make that immediate pull back to the body, it gathers energy. E se non riprendi l'attenzione e la riporti di nuovo immediatamente dentro il corpo, quella storia acquista energia. And you'll find yourself planning this trip to South America. E allora ti trovi anche tu a pianificare un viaggio in Sud America. Now, the more concentrated you become, the more power there is in the mind. E quindi più tu diventi concentrato, più potere ci sarà nella mente. So for instance, if you're on the week long retreat and you're really keeping the effort, and by day 4, day 5, you know, the mind is very, you know, it's quite still. It sometimes wanders, but it's quite still. Per esempio, se fai un ritiro che dura una settimana e davvero tieni la mente impegnata nella pratica, vedrai già al quarto, al quinto giorno che certo a volte divagherà, ma non così spesso come prima. And just for a little time you give in to some desire that you've been thinking about before. E magari di tanto in tanto ti arrendi anche ad avere qualche desiderio che avevi prima, ma a cui non dai più così importanza. And it's like you don't make a decision really to come away from it. Nel senso che a quel punto non è più che prendi una vera decisione di allontanarti da quel desiderio, da quelle cose. So you might say, oh, planning, okay? But and then as you turn away, you're not making the decision to stay here. Ed è come dire programmare, poi è come se ti sposti con l'attenzione, ti giri da un'altra parte, ma non è che prendi proprio la decisione. Ah, so the desire is still there, you see. Quindi il desiderio è ancora lì. Like a magnet. Come una calamita. And then a moment, and off you go. E poi basta un momento, sei di nuovo là. Ah, now because there's so much power in the mind, whoa, you're away 1 hour. E dato che nella mente adesso c'è così tanto potere, ti sei già allontanato, è già passato un'ora quando te ne accorgi, ti sei già allontanato così tanto. And depending on the strength of the concentration, it can sometimes take you up to 2 days to bring your mind back, to get back that level of concentration. E in base anche alla tua concentrazione, a volte ci vogliono addirittura 2 giorni per riuscire a ritornare a quel buon livello di concentrazione. You know, be careful, that's all. Quindi fate attenzione. So the same applies to everything which is negative within us. E la stessa cosa si applica a tutto ciò che è negativo dentro di noi. Our angers, our anxieties and worries. Le nostre rabbie, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni. The boredom we might feel. La noia che potremmo sentire. All those negative things, all those negative mental states. Tutte queste cose, questi stati mentali negativi. we find that they also do the same. They all create this imaginary world. Scopriamo che a loro volta fanno la stessa cosa, cioè ci creano un mondo immaginario. Yeah. And it's exactly the same. If you don't come off them, you give them a lot of power. Ed è esattamente la stessa cosa, se non riesci a uscire fuori da quegli stati, gli dai un sacco di potere. So again, it's the usual thing. You have to be clear about your noting. E di nuovo è la solita cosa, devi avere chiarezza rispetto al prendere nota. There are some negative states we have which we don't like to accept about ourselves. Ci sono degli stati negativi che non accettiamo di avere dentro di noi. So for instance, jealousy. Ad esempio la gelosia. Nobody wants to say they're jealous. Nessuno vuole dire ammettere di essere geloso. To say you're jealous means you're inferior. Perché dire che sei geloso vuol dire che sei inferiore. If you're envious or jealous, you think the other person is better than you. Se dici che sei invidioso o geloso, questo si implica indirettamente che l'altro è meglio di te. So it's often other people who see your jealousy before you see it. Quindi spesso sono gli altri che vedono la nostra gelosia prima che ce ne rendiamo conto noi. Ah, so to catch that can be a bit of a... Quindi accorgercene può essere un pochino inquietante. And we can also have dark intentions which we have not really acknowledged. O potremmo avere delle intenzioni oscure che non abbiamo veramente riconosciuto. Even as dark as suicide. Per esempio un suicidio, un desiderio di suicidio oscuro. Sì. So have to be very careful with those sorts of mental states. Quindi dobbiamo essere sempre molto cauti con questo tipo di stati mentali. Because they can very quickly take power over us because we've not really understood how powerful they are. Perché possono molto rapidamente prendere il potere su di noi perché non abbiamo compreso quanto potere realmente hanno. So we're opening up to our darker parts, you see. Quindi si tratta di aprirci anche alle nostre parti buie. To the swamp. La palude. Crocodiles and snakes. Con i coccodrilli, yeah, i serpenti. Terrible. Terribile. So again, if these things come up, you see, it's always the same thing. You're coming off the mind and you're feeling this turbulence in the heart. E di nuovo la stessa cosa facciamo. Non appena li notiamo, usciamo dal sogno della mente ed entriamo nel corpo e nel cuore a sentire come sono, di cosa sono composti. Sì. I'll skip the middle one. Number 4 is restlessness and guilt, shame, remorse. Quindi salto il terzo di questi impedimenti e passo al quarto, che è l'irrequietezza, che è composto di vergogna, senso di colpa e rimorso. Restlessness can be either very physical or mental. Perché l'irrequietezza può essere una cosa molto fisica o anche mentale. So if you feel very restless, the body just wants to move all the time. Se ti senti molto irrequieto, come se il tuo corpo volesse muoversi continuamente. Like there's an electric current going through the body. Come se ci fosse una corrente elettrica che attraversa il corpo. So make sure you're lifting up through the spine. Assicurati di sollevare la spina la colonna vertebrale verso l'alto. Make the effort to relax everything. E fai anche lo sforzo di rilassare tutto il resto. So you can feel more keenly that sense of vibration. In modo da poter sentire con più chiarezza questa sensazione di vibrazione. If you can stay with the whole body, that's good. E se riesci a restare in contatto con tutto il corpo, questa è una buona cosa. But one thing you can do is just begin to scan the body all the way down, you see. E una delle cose che puoi fare in quei momenti è di fare una scansione completa del corpo partendo dall'alto verso il basso. And if you keep scanning downwards, you tend to calm the body. Perché se fai questa, continui a fare la scansione dall'alto verso il basso, la tendenza in genere è quella di calmarsi. But you're not doing it for that purpose. Ma non lo fai con quell'obiettivo. No, you're doing it for the purpose to investigate this sensation. il tuo obiettivo è quello di investigare le sensazioni. To feel it, to experience it intimately. Di sentirle e di farne un'esperienza intima. And of course to be aware of this negativity, wanting to move. E anche di essere consapevole di questa negatività che vuole muoversi. And if it becomes overpowering, if you feel it really is almost unbearable, sometimes if you put your attention on a neutral part of the body. E se davvero diventa sopraffacente, senti che non ce la fai più a sopportarla, allora quello che può aiutare è di tanto in tanto ritornare con l'attenzione su una parte del corpo più neutra. And you're placing your attention on something neutral. Porti l'attenzione su qualcosa di neutro. But of course you are still aware of this agitation. Ma naturalmente, contemporaneamente, sei ancora consapevole della tua agitazione. And when you've gathered enough equanimity, you come back to the restlessness. E poi, quando hai messo insieme abbastanza equanimità, puoi tornare all'irrequietezza. Now, he puts on the same category all those things to do with guilt, shame, remorse. Quindi nella categoria dell'irrequietezza mettiamo anche tutte le cose che hanno a che fare con la vergogna, il senso di colpa e il rimorso. So this is the second tier of suffering. E questo è il secondo livello della sofferenza. The first one is the act of wrongdoing. Il primo è le azioni errate. Which causes anger, eccetera, eccetera. Che causa rabbia, eccetera, eccetera. And the second level is recognizing we've done something wrong, so that's when we suffer guilt, shame and remorse. E poi il secondo livello è quello di riconoscere che abbiamo fatto qualcosa di errato, di sbagliato, quindi la sofferenza lì è collegata al nostro sentirci in colpa, provare rimorso o vergognarci. So it's a case always just feeling it. E in questo caso si tratta di sentire. If you can do something about it after the retreat, then of course you do. E se poi puoi far qualcosa per rimediare le tue azioni dopo aver concluso il ritiro, naturalmente fallo. But if you can't, then you have to suffer the consequence of unwholesome action. Ma se non puoi rimediare in nessun modo, allora devi sopportare le conseguenze di un'azione non salutare. And then you have to watch the reaction to that. E poi devi osservare le reazioni a questo. How you might be hating yourself, criticizing yourself, and so on. Per esempio il fatto che ti odi oppure ti stai criticando. Even that must be recognized and felt, you see. Anche quello va riconosciuto e sentito. It's not developing so long as it's not becoming a dialogue. E non è una cosa che si sviluppa, quindi non diventa un dialogo. Sì. So it's all about feeling, experiencing intimately what's happening at the feeling level, the body. Quindi si tratta sempre di sentire e fare un'esperienza intima a livello di sensazioni, di percezioni nel corpo. I forgot about restlessness in the mind. Mi sono dimenticato di aggiungere l'irrequietezza mentale. Sometimes the mind can feel as though it's gone berserk. A volte davvero sentiamo che la nostra mente sta impazzendo. It just goes into this overdrive. Va in questo sovraccarico, in questo lavoro eccessivo. So in this case you just have to be patient. E in questo caso si tratta di essere pazienti. So you just keep coming off that, keep coming back to the breath. Si tratta di continuare a uscire fuori da quel vortice, ritornare al respiro, al corpo. Remember, the mistake is always to empower the mental state. E ricordatevi che l'errore è sempre quello di dare più potere a quegli stati mentali. The reason they're coming up is because of habit. La ragione per cui emergono questi stati è dovuta all'abitudine. So the will is within the habit, you see. Quindi quella volontà è dentro l'abitudine. And this is you can't stop that. E non possiamo arrestarlo. You can only wait for it to exhaust itself, remember. Possiamo solo attendere che si esaurisca da solo. It's important to remember that. È importante che ce lo ricordiamo. The last one is doubt. Poi l'ultimo impedimento è il dubbio. I think I might have talked a bit about it in the recording. Doubt. Penso che ne ho parlato in quella registrazione che avete ascoltato, vero? Yeah. So, sì? Yeah. No, sì, sì. No. Sì. somebody, yeah, I think so. I think so, yeah. Yeah. Penso che ci fosse nella registrazione. Yeah, I think maybe some people fell asleep. Forse qualcuno di voi nel frattempo si era addormentato. I can't understand it. Non l'ho capita questa cosa. So, skeptical doubt is the doubt that stops you doing something. Quindi il dubbio scettico è quel tipo di dubbio che ti impedisce di fare qualcosa. The Buddha doesn't want us to believe anything that he says. Il Buddha non vuole che noi crediamo nelle cose. He wants us to have a sense of doubt, good doubt or wonder, like the philosophers wonder. E vuole che noi abbiamo un tipo di dubbio buono, come un po' l'interrogarsi di un filosofo. But this doubt stops you doing something. Ma il dubbio scettico è quello che ti impedisce di fare qualcosa, ti ferma. So if you doubt whether the meditation will do you good or not do you good, and you speak to this person, you read that book, but eventually you don't do it. Per esempio, se tu non sei sicuro che la meditazione ti faccia del bene oppure no, allora ne parli con qualcuno oppure ti leggi un libro, alla fine non la fai. Ah, now when you have that sort of doubt, go beneath all the lists and all the thinking about it. Quando hai questo tipo di dubbio, vai sotto tutti questi pensieri che ci fai sopra, tutte queste letture, queste considerazioni. And I think you'll find fear. E vedrai che lì sotto c'è la paura. Fear of failure. Paura del fallimento. Fear, just fear of something. Paura di qualcosa. And really it can be quite destructive to our lives. E davvero può diventare qualcosa di distruttivo per la nostra vita. Sometimes you have to make a leap of faith. A volte bisogna fare proprio un salto quantico verso la fede, il fidarci. So let me go back now to number 3. Adesso ritorno all'impedimento numero 3. My teacher used to call them our two very good friends. I miei insegnanti le chiamava i due ottimi amici. Dullness and lethargy. Il torpore e la letargia. You can hear their little voices. Potete sentire, no, queste vocine. What you need now is just a power nap. Allora, veramente, quello di cui hai bisogno in questo momento è farti un bel pisolino, un sonnellino. Ecco. And of course you feel, oh yes. Sì, certo, proprio così. So remember, we have developed this heaviness in the body and heart. Ricordiamoci che siamo stati noi a sviluppare questa pesantezza nel corpo e nel cuore. Often we've used going to sleep as an escape. E tante volte usiamo il sonno come una via di fuga. If you feel a bit depressed, we say you go for the duvet dive. Duvet dive. E se ci sentiamo un po' depressi, si dice in inglese che andiamo a sprofondare nel piumone. or just lay flat out on the couch. Oppure ci mettiamo belli appiattiti sul divano. And hopefully we wake up and the depression is gone or the feeling is gone. E la speranza lì è sempre che poi ci risveglieremo e la depressione o qualunque altra emozione non ci sarà più. So a lot of this feeling of heaviness and dullness is actually something we've used to suppress and repress what we don't want to feel. Quindi tante volte è proprio questo senso di torpore, di letargia che noi abbiamo usato per sopprimere o reprimere qualcosa che non volevamo contattare. And the other reason we develop it is because we like to sleep. E l'altra ragione per cui li sviluppiamo questi stati è perché ci piace dormire. Especially when you wake up and you're in that lovely subliminal place. Soprattutto quando ci stiamo svegliando e siamo in quello spazio subliminale così carino. When you're just floating. E stiamo fluttuando. And the body feels warm and all. E il corpo sente caldo. And it's very difficult to find a reason for getting up. E davvero lì è molto difficile trovare una buona ragione per alzarci. So this is also putting heaviness into the system. e anche questo porta della pesantezza dentro il sistema. So just as we might look at all the other obstacles as whirlwinds, e anche questo, come anche gli altri impedimenti e ostacoli, li possiamo vedere come dei mulinelli. Dullness and lethargy are like whirlpools. Gli altri sono dei mulinelli, cioè delle spirali che vanno in alto, invece quelli della letargia e del torpore sono, vanno verso il basso, sprofondano. So when you, so what you must do is refuse to be annihilated. Quindi quello che devi fare è rifiutarti di essere annientato. You must do everything in your power to stay awake. E poi devi usare tutto quello che hai nel tuo potere per rimanere sveglio. So in the sitting you might lift your body. Per esempio nella seduta puoi sollevare il corpo. You can open the eyes. Puoi aprire gli occhi. You can actually look at light. Puoi guardare direttamente la luce. But keep the attention inward. Continuando a tenere l'attenzione dentro di te. You can stand up. Puoi alzarti in piedi. And even then, when you feel you're going to fall over. E quando senti che anche in piedi stai cominciando a cadere. That's when you go outside and walk gently up and down. Quello è il momento di andare a fare un po' di camminata avanti e indietro gentilmente. You have to take the big fat dog for a walk. Up. Devi portare il grosso grasso cane a fare un giretto. Up and down. Up. Su, giù. Keeping the attention always in the feelings of heaviness. Mantenendo l'attenzione sempre su questa sensazione di pesantezza. Now don't be surprised that when you actually stay awake to this to these heavy feelings. E potreste sorprendervi perché quando riuscite a rimanere svegli stando in contatto con questo senso di pesantezza, as they evaporate, mentre evaporano, the underlying mental state that you've been hiding from yourself begins to rise. Comincerà ad emergere lo stato mentale sottostante, quello che tu hai cercato di reprimere. So this is very good. E quello è un gran buon segnale. Because now we're really beginning to cleanse the heart, the purifying the heart. Perché a quel punto inizia davvero la pulizia del cuore. And on that point, the more you open up to what is unwholesome within us, the more it finds permission to come up. E più noi ci apriamo a entrare in contatto anche con gli stati mentali non salutari dentro di noi, più questi avranno il permesso di emergere. So you think you're depressed. Quindi tu pensi di essere depresso. And you open up to it. Ti apri a questo. And then you really get depressed. E a quel punto ti deprimi davvero. Because now you're opening up to the fullness of this depression. Perché ti stai aprendo alla pienezza, all'intera esperienza di questa depressione. And it's the same with all the rest. E vale anche per tutti gli altri. With anger, for instance. Per esempio con la rabbia. I remember at one point I had a series, it began with a series of dreams. Io mi ricordo che una volta avevo iniziato ad avere una serie di sogni. It was in Technicolor. In Technicolor. And it was wolves or dogs just ripping apart a body. E c'erano dei lupi o dei cani che stavano veramente lacerando un corpo. Now thank heavens I didn't go to a psychiatrist. Per fortuna non sono andato dallo psichiatra. And what began to happen was this acid burn in the heart. E quello che è iniziato ad accadere è come un senso di bruciore acido nel cuore. A real sort of acidic anger. Veramente era una rabbia acida. And it kept going on for 6 weeks. Ed ha continuato a stare lì per 6 settimane. And the nightmares, they weren't particularly nightmares, but the dreams became less and less violent. E quegli incubi, che forse non erano neanche incubi, erano semplicemente sogni, hanno iniziato a diventare sempre meno violenti. Sì, and the last one, e l'ultimo, was a cat biting my big toe. Era il sogno di un gatto che mi morsicava l'alluce. And I woke up. E mi sono svegliato. And that was it. It was finished. Ed quella è stata la fine, è svanito così. So during that time I was on retreat, you see. E in quel periodo io stavo facendo un ritiro. So expect such happenings. Quindi aspettatevi che accadano delle cose simili. And give them, you know, and be joyful. E siate gioiosi. Yes, because this is the heart purifying itself. Perché è il cuore che si sta purificando. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. That I have not caused even further confusion. E di non avervi causato ulteriore confusione. And that by your committed working with these hindrances. Che il vostro lavoro impegnato e devoto con questi impedimenti. You will very quickly purify the heart. Potrete purificare molto velocemente il cuore. And experience the peace, the bliss of Nibbana. E sperimentare la pace e la beatitudine del Nibbana. Sooner rather than later. Prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu. Ah, thank you very much.